a parte che se c'è già nel canale non sono loro che devono dirti cosa devi fare, sono loro che devono chiedere di entrare, eccetera. Ma poi prima il 5, poi il 45, adesso anche il 10, fra poco si guida il tavolo e questo. Oppure già sono entrati, no? Con loro sono il coso, io parlando e loro sopra, a casa entrare così, a poi capire da un culo di chi c'è che passetti, chi tu che tasso, chi c'è una, tutti i parolacci, altro che non te ne dico, a volte la giudetto io, come ha detto nel PD, ho entrato tutte queste cose grosse lì e poi, nel canale 10 e cose. Li guardano le cosce alle donne quando guidano, perché loro sono in alto e vedono tutto, no? Come lo trovo anche a casa, dove sono detto, si compra la camicia, camionisti non bisogna fare il buon fascio, però ci sono quelli fettenti, ci sono quelli che ti rispondono male, cose, oppure che fai break e non ti fanno entrare. Ancora, no, è solo io, ma se sicuramente dal comportamento che ha esempio potrebbero diventare amici miei, quello è poco ma sicuro. Purtroppo vedi, c'è certa gente che così rovina la categoria, perché uno pensa che siano visti così, anche se non è così, perché io cammini nel conosco e sono in gamba. C'è quello che vede al continente da noi, cavolo, che è una persona veramente a modo, ci ha portato le fotografie, c'è la moglie che guida gli autotreni, i figli e lui, hanno un parco enorme davanti alla villa di casa, ci ha fatto le fotografie, siamo a livello di amicizia, ci fa vedere tutto dove abita, tutto grande. Quello lì descriveva le donne che vedeva nelle cose, quello che stavano facendo, un pezzo di ridia. Ma capo, ma io si devo mettere di più. Ah, e chi entri a te? Certo, è da poco acciughe però, è da poco acciughe. Quella era la montezza della frequenza. Come minimo sì. Ma poi per la chitarra c'è un bastone. Allora c'è un nastro, ogni volta che entrava, parolacce, non è quello che andava a bastone. Ehi, ce l'abitavamo tutti. Mi dava il saggio. Da lì tu allora. Mi diceva parolacce tutti qua. Non li conosce, ma ci ha capitato dove modulavo. Generali di sul bastone, però poi facevano la ronda, andavano e toccavano in aiera, come ti abbiamo qui una giusta. Allora. E così dopo la smettevano. E ne hanno fatto smettere un bel di chi sai essere così. La ignoranza, tu che aiuto. Uno si può entrare, è come se io si può giocare con una portata. Si può entrare, vedi, ti fa il tuo discorso, tu sai, tranquillamente, che bisogna c'è di stare lì, capito? Ma adesso ci sta bene qua. Non è quello dove come si la toccare lì. Adesso faccio ridere a cosa? A come si chiama? A Falchetto. Che cosa la metto? Aspetta. Io sto qua. Tu gli ha chiuso dove si è dormito. Che è rimasto in parcheggio, vediamo un po' avanti che è rimasto in parcheggio che non mi ricordo magari. Già. Ehi, se non attimo in bagno. Ehi, ti avevo chiamato. Vabbè, dai, riprendi tra. Che c'è la qua. Scappa. No, stavo sentendo un guasto, stavo sentendo, vabbè. Guasto, che è questo guasto? Tanto quando è cotto si mette a fare un po' di casino. Torra, vinto? Sì, un guaccio, limone, ha fatto il tavolo muro, infatti yeah. Yeah! È un po' di guaccio, dai. Ma di chi ci sono io? Sì, di chi, bebezzino, mi ha dato, vediamo qualche trucco, sai come? Ma guarda, mi stavo avendo nervoso, sono andato a prendere due pizzette con la carino, mi ragazzi alla rete, aveva anche su casa riponendo i magalambrieri, la tratta, ma non so voi, poi attennati, tanti di muta in chi muta, ma continui qui, ma poi ci è uscito fuori la moglie, ma scusate, ma l'acqua fa brutti fritti. Io sono l'iPhone, lui che va tutto in scuola. Se la prende col pilastro, mi dava tipo un vuoto, un va. Magari mi dice, va? Da voi va. Che farmi da col pilastro mi lasciava in capo. Non si è. Da voi ne ha fatto le pulizie. Avanti con il giappo. È un po' esaurito, era. Sì, magari da chi si compiglia. Poi sei buono a fare l'orlo di Sarza. E si buono, yeah! Un esaurimento, non è che piglia RCB, roba così, no? Tutto va, tutto vuoi tre. Ghiacci ci sono, non sai da fare ghiacci, ti cacciano le cellule del cervello, ma poi sono le ricche cellule che non ricrescono più quelle del cervello, quindi ti va a diventare ma come frutta. Sì, vino, birra, tutto mischiato, indifferentemente. Basta stare, a sconvolgersi così. dica, ma di tutto fai, sei un gruppo di zero. E non puoi andare a pigliarsi da così. Ma pure alta, così fa vedere la chiama, è un po' esaurito, dai. Mazzarina. Oh yeah. Yeah. Oh, ancora il cazzotto si cazzo di più. No, non ho il computer. Yeah, noi ancora non l'accendo. Dopo vado con l'accendo un po' a vedere se c'è qualche cosa nella posta che la io ho trovato 82 miglia. Con poco si esaurisce un po'. Cosa hai trovato? 72 miglia c'era. E cosa hai visto? 1.75. E vabbè, ma c'erano di quella pubblicità system, come dimagrire questo e quell'altro. C'era anche della pillola, insomma, tutti i colori della pillola Viagra. No, io sto ascoltando i radioattori tramite internet in diretta. Ah, cava, cava. E sono collegato, cava. E io ogni tanto ci andavo, però non mi ricordo il sito come. Sono andato una volta e li ho sentiti anche io. Mi ha sentito io, beh, si sento. Com'era? Nella RAI mi pare che fosse il sito. Ascolto radio, saxa rubla. No, no, no, non è quello lì, non è quello. Radio ascolto c'era, era quello lì, una cosa del genere. E vabbè, comunque già è bello ascoltare tale. Fatti i conti. Sì, anch'io sono arrivato a Roma Io sono arrivato ad Amsterdam. A Roma è una zona gonfia, come propagazione. A Roma è difficile. E quando c'è propagazione per lì, quando c'è propagazione per lì, già arrivi anche lì, da tutte le parti arrivi. Perché mi ricordo io, Roma non l'ho mai collegato. Quelli siciliani, calabresi, con Trieste, con Treviso, con Verona, ma brutto. Ma no, vedete, già, cosa state? Non si ricorda quello che avevo fatto parlare. Qualcuno di tua conoscenza non te l'ha fatto parlare. Con quella nuvola, quella che era nelle zone di Sì, sì, è vero, con Uvola stavo parlando. Poi quando parli ci parlano sopra, un casino. Dico io non comprendo più un capo. Detto vabbè la pazienza. Sì, infatti, andrà bene meglio. Ma di oggi la me ne vado a letto, perché mi sta venendo sonno. Pucci, la manipola. Puccia. Signori, voi avete da parte mia, salutori a Gemmi, salutori a Natalino, a Pierpaolo e a tutti. Buonanotte, tutte le prossime. Ciao ciao. Ciao, ci sentiamo, buonanotte, buon lavoro per domani. Avanti, ci sentiamo e buon lavoro per domani. Pierpaolo. Vi saluto anche io a tutti, là. Anche io me ne vado a letto. Ciao Falchetto, Gianni, Antonio, Pierpaolo, chi altri ci fosse in ascolto. Al fondo QRT al 27075K. Ciao Antonio, buonanotte. Dai, avanti buonanotte. E ciao Falchetto, che la raccontiamo tutta la prossima. Te, ciao, buonanotte. Ciao. Casino, questi qui quando parlano male per papuri, pensano che c'è tutta la frequenza così, capito? E cominciare a rompere i capirati. Che piazza il cantistero e cosa, adesso non mi è ascenso. No, lì quella via, no, poi chiedi. Mi sembra che sia prima della curva di Portobello. E dove c'è la Mercedes? Vedi, quella strada c'è prima della Mercedes. Dovrebbe essere in quella zona lì, chiedi. Perché mi hanno detto che lì, però non lo so di sicuro perché non sono mai andato. Dove è proprio il punto giusto, non te lo so dire. E pensa sulle 110, 120, per prezzo di vero, più o meno. Eh sì, No, la GPC non è. C'è la Fusaro, questa qua, c'è la Standard, e quelle lì, però Fusaro, non ne ha mai, davvero. La Superlome c'ha, e la Ringo. E a mano c'è ammazza che si antenna, secondo me, perché è strano che non arrivi a Sassi. Thank you. non ci serve più comprare ricevitori per là. Tanto ti ascolti in internet, già te ne vai. Magari hai trovato la frequenza giusta, ma la devi cercare più la frequenza, mi sembra, vero? Sì, io adesso sono in contatto, ma la frequenza, come siamo noi, sul canale 10, e sta parlando questo Roberto, Roberto Iuse, Roma Tiburtina. La sua Tiburtina, ecco. Ed è CB o radiamato? No, questi sono CB adesso. Prova. Sì, perché mi hai colto il microfono in terra, vai, non ammazzo. Questo microfono non lo direi, no, lo adoro io questo microfono, mi è scappato da mano. Mi scendo l'insulta la mano, a fine entrare in mano, capito? Mi è venuto questo indolore insieme tra la mano, e mi si è farata. Quante volte ti sei già parato? No, lì sono stati già demoliti quelli che mi sono scesi. Non ho aggiustato questo qui, ho aggiustato mi appare un due o tre volte. Un tappetino, serve, almeno l'imbarata. E certo, aspetta, ma come quello del corpo si stacca le fini. Quelli del potenziometro dell'eco. Ce l'hanno fatto in qualche maniera con le salvezze, per poi si sono freddi, quanti mila lunga poi si stacca. Cioè, tu visto quello che io bisogna fare. Io non ne ho voglia di appellarmi, troppe cose ci sono da fare, troppi fili. Non ci vedo, è un casino, già mi vita rimani, non lo diciamo a capire cosa avrei capito. Con gli occhiali qualcosa in più, ma con gli occhiali a casa, con la luce accesa, tutto quanto vedo bene. Perché la notte lo uso il computer, la sera tardi, lo uso dopo che finisco qua e vederci vedo bene. Però poi mi stanca la vista, mi fa lacrimare l'occhio. Sennò prima non me ne facevo neanche quanto se ne è così. Saltavo, vazio, la soldatrice a stagno, di quelle a pistola. Ci avevo, prima si usava la pistola, ma non si usavano altri soldati di salvato, come i piedi erano in mano. Quelle stampanti non so come si usava, subito si cade. Ma pure va bene passare il novello, ma non passarci su stampati. Mi attacco io, non sono un tecnico, cerco questi stampati, non devo fare, non sono come un tecnico io. Per farci questi stampati ci vuole innanzitutto il salvatore ad aria, che è aria calda. Vabbè, già, ma se tu devo assaggiare questo salvatore, ti esco un salvatore un po' così. Ma il salvatore esco bellissimo, sì. Deve usare uno stagno più grosso e... grosso, il salvatore naturalmente non è fatto per farle così fine, ma per dire, se devi fare uno spinotto te lo fa tranquillamente. Dice, fa un via adesso. Adesso ci puoi voi, riescono un pochettino a così, non escono bene, dai. Ma questi circuiti che fanno adesso devi avere gli strumenti giusti, se no. Allora c'è tutti a passare un'altra. Ma se di Milano me l'ha spiegato, mi ha detto che lui ci ha fatto arrivare i macchinari apposta per questi tipi di circuito. Ma perché te ne portano a pallone? Gli è giusto. Lui è concessionario Mitra. Cioè, questo me ne portano di quelli. Io ce lo vedo che è giusta, non è che... solo che diciamo solitamente Massimiliano impegna a fare cose più grosse tipo ponti radio, questo che si deve assegnare dal negozio, dal laboratorio, si assenta, si allontana. Quello lì è più trono, volevo andare a chiamare, magari per la fama. C'è tempo già di fare, non è che... quando ha il tempo sufficiente, ti avrò fatto tranquillamente, non c'è problema. Tanto mamma se ne... no, non lo so questo come... ma mi pare non hanno più PLL, hanno un emulatore, mi pare. Cos'hanno? No, volevo dire modulato, adesso non me lo ricordo, sono diversi. Questo è un mulattore, c'è da registrare tutto. Avanti, per favore. Embulatore. Embulatore? Sì. Lasciami tu. No, la tua sono altre. Sì, infatti non so tutti che lo possono toccare, ma lo stavo spiegando Massimiliano, se uno non c'ha l'attrezzatura adatta non ci può mettere a mano. Di microchip. Le saldature sono ancora più piccole. E sono microchip. Che bisogna trovare quella lenta lei? Questo che è tornato a dormire, chi è avanti? Punto, avanti, no. dormire adesso. Se ti sei andato lui a dormire invece rompi il canto dall'altro. Mega Race. Uno che non l'ha mai inteso. Ci siete un bel caffone. la faccia, mostro la faccia. E tanto è così, vai a curare, e buonanotte. Oggi il canale è finito tutto il resto. Non è su 2-1, lui deve spegnere, non io. Così? Ciao. Anche se ti vuole fare l'opera potente, se tu ti faccio spegnere a te, non io che spengo. Vabbè, fanno più vita e si esita tanto a fonte di niente. Anche a me mi fanno il musica certe cose, ma è matto, lo sono anche a capo di grido. Le gare che non fanno i video un errore, proprio quando ti rispondono male. E infatti, perché tu mi fai un questo normale e ti rispondono così ci rimane anche male. Pranzo mi è successo. Dopo pranzo. Chiavati. Ma che è sotto? No, vediamo che sta approvando. Vabbè. È come la vita normale, si sta attaccati a tutto. Avrai sempre errone, con i vaccini di attaccarti alle persone, anche se magari sono più potenti, eccetera, eccetera. Basta farlo scivolare sopra, mi basta. Ma tu ero più prepotente adesso, a me chi ti dà rispetto, ti do rispetto. Se mi tratta male, allora le questioni cambiano. Hai ragione. Ragione anche tu, ma quanto io devo spegnere anche la bella vita mia moglie, devo spegnere. Ciao, vabbè, già. Ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao, ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Luca, se ci sei, ciao Pierpaolo, ciao, ti ascolto. Ciao, ciao, buonanotte, ciao Arturo, ciao Pierpaolo e buonanotte a tutti. Yeah.